9 in punto. Buona giornata, gentili ascoltatori, da Simone Spezia, 9 in punto, non la versione di Oscar, o almeno non ancora. Oscar Giannino naturalmente ci raggiungerà tra poco. Il tema di oggi, potete intervenire, ve lo ricordo sempre, all'800 24 00 24, naturalmente scriverci via sms al 349 238 6666. Il tema di oggi dipende da questi due giorni di prima Eurogruppo e poi Ecofin che si sono conclusi con un sostanziale fallimento. Questo tutto sommato lo possiamo dire, o più che altro, se non un fallimento, sicuramente una grossa divisione all'interno dei paesi europei. Sul fronte greco, sul fronte dell'ipotesi di salvataggio della Grecia, si è registrata la vera e propria spaccatura tra un asse francese, se così possiamo definirlo, e un asse tedesco. Oggi, tanto per dare un'idea, il titolo dell'editoriale di prima pagina del Sole 24 Ore a firma di Martin Wolf è "Le lezioni sbagliate della formica tedesca". Si stanno sostanzialmente confrontando due visioni. Ci sono paesi che sono stati costretti a fare molto deficit per fronteggiare le conseguenze della crisi e ci sono paesi come la Germania che sono riusciti a farne un pochino meno di deficit e adesso appunto in qualche modo impartiscono lezioni e si vogliono mettere alla guida di quest'Unione Europea in difficoltà. Saluto i nostri primi due ospiti che sono Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Beda, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno anche a Giacomo Vaciago, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora, inizierei da Beda Romano, che forse dalla sua posizione privilegiata ci può illustrare nella maniera migliore qual è la posizione tedesca e perché riesce ad avere in questa fase un peso così forte all'interno dell'Unione Europea. Beh, il peso forte della Germania è dovuto fondamentalmente al peso economico del paese. Il paese rappresenta circa il 30% del prodotto interno lordo della zona euro. Ed è inevitabile che qualsiasi decisione finanziaria o economica a favore della Grecia o di qualsiasi altro paese debba passare in un modo o nell'altro da Berlino. Questo è il motivo economico. La Germania in questo momento sta tenendo l'Europa per molti versi in scacco perché è contraria fondamentalmente ad aiutare la Grecia, o meglio, credo che il paese sia diviso, ciascun tedesco. Beda, ti interrompo un attimo. Questo è curioso perché si pensava invece che i tedeschi sarebbero stati i primi a dare una mano ad Atene. Sì, il problema è che i tedeschi sono divisi al loro interno, direi. Da un lato sono convinti che aiutare la Grecia significherebbe poi alla fin fine aiutare la Spagna, il Portogallo o altri paesi in difficoltà in futuro, quindi sarebbe fondamentalmente un cattivo esempio per gli altri paesi. In realtà cioè, lo stesso tedesco ha un'altra visione, si rende perfettamente conto che vi è un rischio per la Germania a non aiutare la Grecia, perché naturalmente la Grecia pesa relativamente poco, ma i tedeschi sanno perfettamente che c'è la possibilità di un effetto domino e c'è la possibilità di trascinare oltre alla Grecia anche la Spagna o il Portogallo. E la Spagna naturalmente ha un peso molto maggiore sia nell'unione monetaria sia per i tedeschi, perché la Spagna è un mercato di sbocco importante per le merci tedesche, è un mercato importante per il settore bancario tedesco e quindi abbiamo di fronte a noi una Germania che oscilla nervosamente tra il desiderio di rispettare le regole ad ogni costo e naturalmente la consapevolezza frustrante dal loro punto di vista di dovere fare qualcosa. E quindi abbiamo assistito negli ultimi giorni e nelle ultime ore al lentissimo presa di coscienza della Germania che a un certo punto qualcosa andrà fatto, ma è molto lento, indubbiamente. E quello che vorremmo capire innanzitutto dal professor Giacomo Vacciago è dove secondo lui tutto questo ci condurrà. Innanzitutto le chiedo un commento su questi 2 giorni di Eurogruppo ed Ecofin. Insomma, ancora una volta si dovevano prendere delle decisioni e non sono state prese. Diciamo, il peso politico dell'Europa in questa fase di crisi economica rischia di risentirne ancora di più, e anche naturalmente il peso economico. Allora, professor Vacciago, innanzitutto un commento su questo e poi una sua valutazione su quello che ci ha detto Beda Romano, ossia una sua previsione, se vogliamo, su dove tutto questo potrà portare. Prego. Allora, su ogni grande partita, perché lo stesso l'abbiamo visto sulla delibera sugli hedge funds, su ogni grande partita, come trattare la Grecia, se e come fare un fondo monetario europeo, come trattare Londra, cioè la finanza più avanzata, fragile, pericolosa, ma pur sempre Londra è all'interno della UE. Su ogni partita non abbiamo una visione comune, nemmeno tra i paesi maggiori. Poi i 27 vanno governati. Germania, Francia da sempre, se non sono d'accordo l'Europa si ferma. Italia, Inghilterra e Madrid, è bene che ci siano anche loro dalla partita. Il 5, tanto per capirci, e noi siamo parte dei 5, non siamo un paesino piccolo, i 5 non hanno una view comune su nessuna delle grandi partite cui l'Europa è chiamata. E quindi alla fine o tiriamo a sorte, o lasciamo che siano a decidere i più prepotenti, o lasciamo che sia Washington a decidere per noi. Penso agli hedge funds, penso a chi aiuta chi, eccetera, eccetera. Attenzione, Papandreou alla fine è andato anche a Washington e ha detto: io capisco che Berlino e Parigi vogliono fare loro per me, però se dormono io c'ho sempre anche Washington dove bussare. Allora, riassumendo, è possibile che l'Europa resti, temo di sì, resti così divisa? Già stiamo discutendo, Martin Wolf, che avete citato, che oggi è sul Sole e in inglese sul Financial Times, dice che alla fine sarà la Germania a uscire. Come dire che proprio non abbiamo più niente in comune dall'euro? Come dire che proprio non abbiamo più niente in comune? Ma è disperante. Sì, ipotesi decisamente suggestiva, quella suggerita appunto da Wolf sul Sole 24 Ore di oggi, che parla addirittura appunto di un'ipotesi, di una possibile addirittura uscita della Germania dall'euro. Ci ha raggiunto nel frattempo il nostro Oscar Giannino, che è in studio con noi. Oscar, io ti lascio il microfono per la conclusione di questa puntata. Grazie Simone. Vorrei ricominciare facendo una domanda a Beda Romano, che riguarda in realtà anche l'interpretazione da parte del governo Merkel dello stato d'animo degli elettori tedeschi, che credo sia una parte fondamentale, quasi da protagonista di questa vicenda, nella gara a rassicurarli che l'impegno preso con la Costituzione tedesca di essere virtuosi per forza, per così dire, cioè di procedere in ogni caso all'azzeramento del deficit, e quindi di non poter premiare in alcun modo, come del resto c'è scritto anche un po' nel trattato, coloro che non sono altrettanto virtuosi, alcuni criticano la conseguenza di questa posizione. Da una parte è facile compiacere gli elettori, è facile, insomma è popolare compiacere gli elettori con questo, dall'altro c'è chi fa notare che in interesse di un paese come il nostro, che è il secondo paese esportatore dopo la Germania nell'Unione Europea, è un po' diverso da questo, perché la virtù in apparenza fino alla crisi finanziaria, come siamo stati abituati a considerarla e come ci penalizzava, è una virtù che appunto deve premiare i paesi che hanno il debito pubblico in termini di punti di PIL più basso, e quindi noi in Italia siamo poco virtuosi e i tedeschi sono più virtuosi. E questa è l'ortodossia. Però dopo la crisi finanziaria, dopo la crisi del commercio mondiale, e di fronte al fatto che per approfittare della ripresa del commercio mondiale bisogna avere politiche coordinate, la considerazione che un po' si inizia a far avanti anche in Italia è che questa posizione di virtù tedesca, popolare tra gli elettori tedeschi, nasconda un po' la faccenda vera e nuova, e cioè che se non si mette mano a un meccanismo per cui i paesi fortemente esportatori come la Germania accettano di riequilibrare il surplus della propria bilancia commerciale, la loro apparente virtù certo compiace gli elettori, ma significa semplicemente che spinge tutti gli altri paesi meno esportatori a dover deflazionare all'interno, cioè a dover diminuire il costo reale della propria manodopera, a dover diminuire il consumo interno per effetto di meno domanda pubblica, e questa spinta alla deflazione si traduce in un'apparente virtù popolare tra gli elettori, ma in un danno complessivo a tutti, perché ci si rimette di più fingendo tutti di poter avere allo stesso tempo politiche mercantiliste di quanto non avvenga invece con una virtù diversa che si metta a tavolino e dica: riequilibriamo i nostri flussi, perché chi è cresciuto fino a ieri con molte esportazioni, cioè la Germania, ma anche l'Italia, noi abbiamo il 70% della nostra crescita potenziale dall'export, dovrebbe accettare di crescere un pochino di più con domanda interna e consentire un po' più di export coordinato a chi invece aveva troppa domanda interna finanziata a debito. Ecco, la mia domanda a questo punto a Beidai: questa popolarità nell'elettorato tedesco dell'argomento virtuoso tradizionale, nel dibattito pubblico tedesco, si incrocia con questa consapevolezza nuova che c'è nella crisi, oppure devono essere solo i paesi italiani, come l'Italia, voglio dire, che hanno questo interesse a tentare nel dibattito pubblico di incrociare il governo tedesco dicendo: guardate che qui bisogna riequilibrare i flussi, altrimenti questa non è virtù, è semplicemente un nuovo vizio ma travestito dai panni della virtù. Com'è il dibattito pubblico in Germania su questo, Beda? Direi inesistente fondamentalmente. La mia impressione è che la Germania viva con compiacenza il sentimento di autosufficienza. Il paese è riuscito nel corso degli ultimi anni a superare una grave crisi che l'aveva colpito tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, e ce l'ha fatta riducendo il costo del lavoro, riducendo i salari reali, ed è riuscito in questo modo a diventare un grandissimo paese esportatore. Più o meno le esportazioni rappresentano circa il 50% del prodotto interno lordo. La Germania era nel 2009 il secondo esportatore mondiale dopo la Cina, ma è stata per lunghi anni il primo esportatore mondiale. E tutto il paese si è concentrato in questa direzione. Nella reazione tedesca nei confronti della Grecia e nei confronti della crisi dell'Unione Monetaria in questo momento si nasconde il sentimento tedesco dell'autosufficienza. Il paese esporta, e non esporta esclusivamente in Europa, esporta in tutto il mondo. C'era un sondaggio molto interessante di alcuni mesi fa ormai della Bertelsmann Stiftung che faceva notare come per oltre il 50% dei tedeschi la Germania è una potenza globale. Io ho trovato il sondaggio estremamente interessante e estremamente rivelatore. È quella di un paese che, come dicevo prima, si sente autosufficiente e non vede in questo momento nessuna necessità di dover riequilibrare il proprio modello economico. Lo abbiamo visto ieri con un'intervista del Ministro dell'Economia in cui ha spiegato che se la Germania esporta e se la Germania ha un'economia mercantilista, diciamo in questi termini, è perché la Germania ha fatto il suo dovere, ha ridotto i salari reali, ha tenuto sotto controllo il costo del lavoro e ha fatto molti sforzi in quella direzione. Rivedere il proprio modello economico secondo l'establishment politico non ha senso in questo momento. E tuttavia proprio questa collisione di interessi tra paesi esportatori, di cui ce n'è uno più forte, la Germania, ma insomma il secondo siamo noi nell'Unione Europea, porta per la prima volta ieri Tremonti, sia pur cautamente, a esprimere le prime opinioni di critica a questa posizione tedesca, perché come vedremo nella seconda parte, con ogni probabilità i danneggiati numero uno potremmo essere davvero noi italiani in quanto esportatori. Allora, ci stiamo interrogando su questa posizione tedesca che è stata così dominante in tutta la crisi dal 2008 in poi, no a ogni politica condivisa, cofinanziata in Europa al sostegno della domanda e dell'offerta, e devo dire che su questo chi come me è mercatista ci poteva stare abbastanza, per quanto poi questo significava conseguenze molto pesanti rispetto a un mondo in cui gli stati mettevano mano pesantemente al portafoglio un po' dovunque, e ha significato quindi che nei diversi grandi paesi europei ogni paese potesse mettere mano al portafoglio secondo i propri limiti di indebitamento, residui rispetto, diciamo, a Maastricht e alla sostenibilità del proprio debito pubblico, quindi non ha significato ovviamente non aiuti pubblici, ma ciascuno in ragione della propria virtù, dicono i tedeschi. Poi, nell'inoltrarsi della crisi, no anche a nuove regole condivise per una volta creatosi il baratro della crisi dell'euro debito sovrano con la Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda come paesi deboli, il no anche a regole che interpretino quella parte delle regole del trattato come l'articolo 125 che dicono in effetti che in condizioni di straordinaria gravità si può deliberare aiuti a maggioranza e con diverse maggioranze, così le discipline del trattato a seconda della gravità, in grado di aiutare i paesi. Però di fatto i tedeschi hanno detto no fino a questo momento anche a questo set di nuove regole. E poiché nel trattato, lo sapete, non è possibile uscire, e lo abbiamo toccato a questo punto, alla fine il ministro Schäuble, il ministro delle finanze del governo, sembra due settimane fa innovare rispetto ai no tedeschi e propone un fondo monetario europeo, che però nel giro di pochi giorni inizia ad apparire come una nuova maniera per travestire il no tedesco a ogni tipo di regola condivisa, perché il Fondo Monetario Europeo, in parole povere, sembra gravare come finanziamento solo su coloro che non sono in regola e già quindi devono essere richiamati dagli altri paesi dell'euroarea al rispetto di una finanza pubblica più severa, ed è a loro che toccherebbe finanziare prioritariamente quel Fondo Monetario Europeo. Di fatto poi questo Fondo Monetario Europeo in pochi giorni appare ciò che sembra, cioè un nuovo argomento di dibattito fatto apposta per però non arrivare a nessuna conclusione. E il vertice, l'Eurogruppo di ieri, si conclude sulla stampa internazionale più per l'ennesimo rinvio, ma questa volta al set di regole per una nuova disciplina dei fondi finanziari, degli hedge, a cui si vorrebbe accomunare anche i fondi di private equity e così via, piuttosto che nella stampa internazionale, soprattutto in quella anglosassone che temeva questo tipo di regolazione da parte europea, perché americani e britannici la pensano in maniera molto diversa da come pensino i franco-tedeschi. Ecco, questo Eurovertice, Eurogruppo, voglio dire, oramai sulla stampa fa più notizia per questo, per la mancata definizione di questo set di nuove regole sugli intermediari finanziari, che invece per l'ennesimo no tedesco, ribadito a regole comune. Però eravamo arrivati nell'esame di questa complessa situazione a un punto delicato, con le dichiarazioni di Tremonti, sia polverate sia caute, per la prima volta l'Italia all'Eurogruppo di ieri dice ai tedeschi: no, guardate che qui o noi riequilibriamo i flussi commerciali di bilancio di pagamento dei diversi paesi dell'euroarea, li equilibriamo all'interno, cioè adottiamo un'ottica comune, o altrimenti il modello di virtù tedesca, quello fatto su tanta esportazione come traino di crescita e quindi paese più forte per poter approfittare della ripresa della commercio mondiale, si rivelerà un boomerang, perché sarà più debole complessivamente per l'euroarea che più forte soprattutto per un paese virtuoso. Allora, di fronte a questo, professor Vaciago, lei pensa che questa posizione italiana sia l'inizio di una interpretazione più energica della, come vogliamo chiamarla, declinazione del nostro interesse nazionale come secondo paese esportatore e quindi il maggior concorrente della Germania anche sul commercio mondiale, o è semplicemente così una notazione che possiamo cogliere noi addetti ai lavori, ma non l'inizio di una nuova politica capace di dire ai tedeschi: sì, la vostra virtù popolare tra gli elettori, ma non fa il bene dell'Europa? Lei che si aspetta, professore? Allora, non credo che Tremonti rifletta gli interessi contrapposti di due industrie esportatrici, perché non c'è la contrapposizione nei fatti. Noi siamo complementari alla Germania. La Germania è grande fabbrica di grandi fabbriche. Noi siamo piccole fabbriche di piccole fabbriche. Basta vedere le due meccaniche. Sì. La meccanica tedesca e la meccanica italiana. Siamo complementari. Infatti noi siamo tendenzialmente, componiamo filiere medio-basse in cui spesso in testa c'è... Ma è c'è anche la dimensione. Esatto, insomma, certo. Se uno vuole un'enorme acciaieria, la ordina in Germania e gliela viene a fare. Parlo della Cina. Se uno vuole una bella siderurgia come la fa la nostra Danieli, va a Butrio in Friuli e chiama la Danieli. Siamo complementari. Il problema però è un altro, è che siamo ambedue export led e quindi vogliamo che qualcuno faccia da motore della domanda interna. Non si può essere tutti export led, esatto, se non c'è qualcuno che importa, perché questo è il dramma anche tedesco. Attenzione, i tedeschi dicono una cosa e ne fanno un'altra, sono liberisti ma poi proteggono da matti il loro sistema. Eh sì, ma quindi liberisti veri mi pare qui non ce n'è più, c'è solo qualche accademico che scrive bei libri, ma i liberisti nei momenti di crisi, ahimè, le buone idee sono demodè. Attenzione, l'ideologia tedesca è che la virtù produce benessere, ma non è vero, oggi hanno la disoccupazione anche loro, sono in crisi anche loro, il loro PIL non cresce. No, anzi, se mi permette, loro hanno una disoccupazione che è tra le più basse aggiuntive tra i grandi paesi dell'Unione Europea, proprio perché si sono inventati programmi pubblici che, consente, consentono anche loro un po' di truccare i conti da questo punto di vista. Diciamo che fondamentalmente la teoria chi si comporta bene non avrà mai crisi è demodé, non è più vero in questo mondo, anche le nostre migliori aziende soffrono e glielo devi spiegare che non è colpa loro ma è il mondo globale, quando va bene va meglio, quando va male va peggio. E quindi nella complementarietà che lei afferma, però l'interesse italiano, ma in quanto interprete di un interesse europeo, No, è che ciascuno di noi ha la Germania come ancora per ora, ma si riduce in prospettiva, come primo mercato esportato, dove vendiamo. E questi signori consumino di più ed esportino di meno. Questi signori, se vogliono esportare, mi va solo bene. Per piacere, un po' più domande interne. Prima è stato citato l'articolo odierno di Martin Wood, che fa un'analogia forzata e secondo me immotivata fra Cina e Germania. La Cina ha il motore dentro, esporta molto e non riesce a far diverso, ma quando l'economia si è indebolita hanno fatto subito il loro piano di ripresa della domanda interna e oggi hanno la necessità di moderare una crescita eccessiva, tant'è vero che gli americani dicono non fate alzare i tassi, cambiate il cambio così va meglio per tutti. Mi pare di capire, però su questo i cinesi non ci sentono. D'accordo, però la loro crescita non è zero o negativa come quella tedesca. È lì che Martin esagera nell'analogia. Anzi, tutto sommato, i cinesi hanno fatto questo cambio di marcia vedendo che la domanda interna americana, prima di tornare ai livelli pre-crisi, passano anni e dall'aprile e dell'anno scorso... stanno crescendo, il loro motore dell'Asia, loro sono rimasti motore dell'Asia. Quello che dobbiamo ricordare ai nostri amici tedeschi, che se vogliono esportare ci va solo bene, ma loro sono il motore dell'Europa. Allora, questo dovere non possono rinunciare. Allora, in questa interpretazione dell'evoluzione della posizione di Tremonti e dell'Italia, insomma, stiamo fingendo un pochino, stiamo caricando questa posizione italiana di un significato che in realtà non ha avuto anche nelle posizioni caute, per quanto evidenti di Tremonti, ma molto caute. Però la domanda Beda a questo punto, Beda Romano, è questa. Nella aspettativa, nel calcolo che converrebbe a tutti, che i tedeschi consumassero di più, ci si aspetterebbe che attori di questo, sostenitori di questa stessa posizione dovrebbero essere le grandi forze che rappresentano per esempio il lavoro nell'ambito della Germania, cioè i sindacati. E tu prima dicevi che invece il dibattito su questo, cioè il riequilibrio tra bilancio dei beni reali, tra export e importazioni e consumi interni all'interno dell'euroarea, in Germania è praticamente assente, perché domina il motivo siamo virtuosi, siamo bravi. Neanche il sindacato si chiede all'attuale governo misure che rafforzino il potere d'acquisto e la domanda interna? Significativo, direi, non in modo significativo, ma credo che ci siano due ragioni per cui la Germania si sta comportando in questo modo. La prima ragione è questo sentimento di autosufficienza che secondo me nasconde una vena nazionalista, ma questo è un altro discorso e è più complicato da spiegare. Ma credo che ci siano due motivi molto che più per così concreti. Dire ha a che vedere con la complessità di una rivalsa mai dichiarata, ma che però poi nei fatti un pochino affiora sempre nella posizione di consapevolezza della propria forza tedesca. Ecco, è un po' con la storia complicata tedesca, e quindi è meglio non, perché cambieremo binario se prendiamo questo criterio di lettura. Esattamente. No, credo che in realtà ci sono due motivi più concreti e più pratici che spiegano perché la Germania non vuole cambiare modello e perché il dibattito in Germania, se esiste, è molto molto molto soffuso. E credo il primo motivo è fondamentalmente il fatto che i consumi sono bassi perché il paese sta subendo un forte invecchiamento della popolazione e quindi l'esportazione a questo punto non è l'obiettivo, è fondamentalmente l'unica alternativa possibile. per il sistema economico. E il secondo motivo è la paura drammatica del debito pubblico. E qui la posizione è simile sia per la classe politica che per i dirigenti sindacali che per le imprese. C'è grande timore che se la Germania dovesse a un certo punto optare per un cambio di modello e quindi decidere di aumentare la domanda interna nonostante l'invecchiamento della popolazione attraverso ribassi delle tasse, beh, ci potrebbe essere, se le cose non funzionano come dovrebbero funzionare, un aumento del debito. E quindi ecco i due motivi per cui il paese frena e guarda all'esportazione piuttosto che alle richieste francesi e italiani di rivedere il proprio modello. Ora le informazioni sulla circolazione stradale, però qui sono emersi due punti che sono molto importanti perché riguardano anche le scelte politiche di un altro grande paese, cioè l'Italia, che ci interessa da vicino. Invecchiamento: in realtà il governo tedesco, il governo della coalizione degli anni precedenti, ha fatto una riforma ma molto molto molto lenta negli anni delle pensioni. Secondo, tutta la volta che in Germania si parla di fare meno tasse per dare più potere d'acquisto, succede l'ira di Dio. Ricordate il caso di Paul Kirchhoff? Su questi due punti torniamo tra poco, perché temo che siano punti decisivi per l'intera euro area. Eccoci tornati in studio, facendo il punto di questa posizione della virtù tedesca, che dice no a qualunque programma di cofinanziamento, prima per sostenere il mercato europeo, poi no a regole condivise per evitare i paesi, per evitare di non poter salvare altrimenti i paesi che vanno in crisi, come la Grecia, la Spagna e così via. Siamo arrivati a questo Eurogruppo di ieri, alla prima articolazione di, sia pur flebili, ma evidenti prime anche polemiche che vengono da prese di posizione diverse dell'Italia sui rischi di paesi che vogliono tutti insieme crescere solo esportando e non riequilibrando anche i consumi interni in paesi come la Germania. Beh, De Romano ci aveva puntualizzato due elementi che, diciamo, ci aiutano a capire perché in Germania poi il dibattito su questo non ci sia, siano tutti omogenei nel dire viva la virtù dei virtuosi. E però ci sono due punti di fondo che aiutano a capire perché poi ci stia molto cauti invece che chiedere più consumi interni alla Germania, e due motivi che sono l'invecchiamento progressivo della popolazione tedesca e il fatto poi che in buona sostanza le tasse, le alte tasse oppure meno tasse per poi avere più potere d'acquisto, sono un tabù perché la paura del debito pubblico è consustanziale alla storia tedesca. Benissimo, su questi due punti la domanda che io faccio ad Adriana Cerratelli, che ringrazio perché ci sta rubando un po' di tempo al fatto che stava sentendo Mario Draghi, che è in questo momento a Bruxelles. Buongiorno Adriana, ma ci tenevo a chiederti questi, dopo un anno e mezzo di descrizioni che ci hai fatto del no tedesco che fa infrangere ogni tentativo di regola nuova e condivisa di coordinamento o di salvataggio, ma di coordinamento prima che di salvataggio. Ecco, questi due punti precisi che abbiamo visto, cioè l'invecchiamento e quindi riforme delle pensioni troppo lunghe da una parte, dall'altra poco reddito disponibile, poca volontà di individuarlo per il timore che esso poi possa avere delle conseguenze destabilizzanti invece che di rafforzamento dei flussi commerciali incrociati dei due paesi. Abbiamo spiegato in tutta questa trasmissione che questo sarebbe il punto di vista comune a cui l'Europa dovrebbe arrivare, non solo quello della virtù dei singoli paesi nel solo del loro debito pubblico, ma di un equilibrio tra import-export, quindi consumi interni ed esportazioni bilanciato, ed è questo che i tedeschi, abbiamo spiegato, non vogliono. L'opinione che ti sei fatta in questo anno e mezzo di no che ci descrivi ogni volta, dei tentativi che non vanno da nessuna parte, e che davvero non c'è oggi una forza coordinata di paesi che potrebbero unire le loro forze per fare pesare nei confronti di questo no tedesco una voce di ragionevolezza condivisa che non appaia negli organi dell'euroarea semplicemente come la tutela dei meno virtuosi, ma che indichi una prospettiva di sviluppo della politica più integrata. Non c'è questa prospettiva davvero, Adriana? Ma io credo che nella nebulosità di questa crisi si stia facendo strada, una Germania molto diversa da quella che abbiamo conosciuto finora. Io ho la sensazione che la Germania sempre più tenda a prendere l'Europa come una sorta di tram sul quale, o di treno sul quale salire quando le fa comodo, per scendere quando altrettanto le fa comodo. Mi sembra che la Germania, di fronte alla crisi globale, implicitamente da qualche parte si renda conto che l'Europa sì è utile, ma è il mondo quello che le è più utile, e quindi questo senso di solidarietà che una volta c'era, in fondo forzato dal passato della guerra, dai debiti morali da pagare eccetera, si stia superando, si stia stemperando in una nuova Germania. Per questo io temo molto per la tenuta dell'Europa e dell'euro, perché se queste sensazioni dovessero trovare conferma, e purtroppo io sono rimasta esterrefatta quando in Germania di fronte all'idea di aiutare la Grecia, qualcuno ha detto beh, che si vendano l'isola di Corfù. Cioè, mi sembrava veramente di ritornare ai tempi della vendita della Lasso della Lisiana. Cioè, e pensare che siamo in Europa, che è nata con un certo spirito teorico, e che quindi si arrivi diciamo a una mentalità quasi colonialista, che in realtà esiste, soltanto che questa volta addirittura è uscita allo scoperto, la si dichiara apertamente oramai, sì. Allora, diciamo, se questa è la Germania, ma io parlo proprio della nuova psicologia tedesca, dove c'è in fondo un credo imperialistico, perché parliamoci chiaro, quando tirano fuori l'idea del Fondo Monetario Europeo, semplicemente per cercare di ingabbiare ancora di più le economie e le strutture dei paesi membri dell'euro, c'è dell'imperialismo in tutto questo, c'è un nuovo approccio all'Europa, e per questo io non lo so se gli altri poi accetteranno, perché è vero che per avere l'euro tutti siamo diventati in qualche modo tedeschi, però adesso ci chiedono un passo oltre, e non è un caso che la Francia si sia ribellata. E l'intervista della Lagarde altro non è che la punta di un iceberg che già si era manifestato dicendo no, un eventuale passo verso il Fondo Monetario Europeo non può certo essere, diciamo, il contraltare di misure punitive fino all'espulsione. Ma l'espulsione è decisa da chi e perché? Sempre da loro, sempre dai tedeschi. Io trovo che appunto l'Europa si sta evolvendo verso direzioni che non so se saranno poi metabolizzate e digerite. Grazie Adriana, perché ha consentito di far entrare nel nostro dibattito un termine pesante, e un termine sul quale adesso chiedo le opinioni degli altri due ospiti. Termine imperialismo. Il termine la gentile, non alza mai la voce, ma durissima cancelliera tedesca Merkel è il simbolo di una Germania che guarda una politica di potenza, in cui chiede che di avere il diritto, si prende il diritto di tutelare solo i paesi in cui la Germania ha delocalizzato, magari anche se non sono nell'euroarea già, ma dicendo agli altri fatti vostri, e noi abbiamo la forza per chiedere e per ottenere di fare così. Domanda un po' tosta, perché significherebbe agli altri di farsi bene i conti. Fino a che punto convenga mantenere una posizione di condiscendenza, e qual è il limite oltre il quale bisogna fare come la signora Lagarde? Dire, cari tedeschi, così non andiamo più da nessuna parte, insieme, perché potremmo essere disposti a fare cose insieme con altri. Senza questa radicalizzazione, ma avendo in mente che questa posizione tedesca c'è, dice Adriana Cerretelli, chiedo a Giacomo Vaciago, è il simbolo di questo la dolce cancelliera Merkel, invece d'acciaio e neoimperialista? Ma il pasticcio è che noi facciamo l'euro e il giorno dopo il mondo in realtà diventa globale. L'euro era un progetto politico e anzitutto economico. Grazie alla moneta comune migliora molto il mercato unico. Ce lo ricordiamo ancora? In altre parole, grazie all'euro ci integriamo. Peccato che negli anni successivi, tutti noi compresi, abbiamo capito che il mondo era cambiato. La coincidenza fra l'avvio dell'euro e l'inizio del mondo globale è paradossale. Allora, oggi alla grande industria tedesca l'Europa va stretta. La grande industria tedesca era andata in Cina col suo governo, già con Schröder, 10 volte quando noi ci siamo andati una sola volta. Ecco, ma no. E quindi per la grande industria tedesca il mondo è l'economia, non è più il mercato unico, non si parla neppure più di mercato unico. I 16 non si stanno integrando, questo è il paradosso. L'euro era il biglietto del tram comune. E quindi lei dice, io alla fine i tedeschi non solo li capisco, ma fanno bene visto che non ci siamo integrati. Il mondo è cambiato, sanno da sempre che la loro potenza economica è un sostituto della potenza militare che è loro impedita. Non hanno esercito, ma hanno la grande industria. Chiarissimo, domanda che devo fare proprio rapidissima a Beda Romano. La dolce cancelliera come simbolo di durezza neoimperiale e neonazionalista è una chiave per la declinazione al futuro della propria popolarità in quel paese? Ma la signora Merkel è stata definita pragmatica in Italia e in Europa. A me sembra più opportunista, dietro l'opportunismo non so se si nasconda neoimperialismo, certo credo che abbia ragione Adriana Cerretelli. La Germania usa l'Europa quando le fa comodo. Io continuo ad essere convinto che i tedeschi sappiano e conoscano perfettamente tutti i vantaggi dell'Europa nei confronti del resto del mondo, perché la Germania è un grande esportatore mondiale, ma sa perfettamente in cuor suo che non pesa nulla nei confronti della Cina, dell'India e degli Stati Uniti. Da sola. Ecco. Da sola. E quindi i tedeschi ne sono consapevoli, ne sono perfettamente consapevoli. E quindi nel pragmatismo, nell'opportunismo, a seconda dei casi, a seconda delle persone, credo che questo aspetto loro non lo dimenticano in questo momento. Grazie a Beda Romano e grazie al professor Vaciago e ad Adriana Cerretelli. Come si sarà capito, io sono fortemente a favore di un'Italia che insieme alla Francia ricordi ai tedeschi che o insieme si pesa in questo mondo globale di cui il commercio dobbiamo tutti attirarci, oppure è meglio che l'Italia tenda a tutelare un pochino il proprio interesse, ma soprattutto l'interesse di un'Europa che deve riequilibrarsi, perché col modello tedesco da solo non va da nessuna parte. Potrà piacere ai tedeschi, ma voglio politici capaci di declinare senza nazionalismo e senza finti orgogli italiani un interesse comune. Quindi io applaudo a questa dichiarazione di Tremonti di ieri, se non si è capito. Comunque, grazie a Simone Ganchi che ha iniziato la trasmissione perché io, ahimè, ero in ritardo. Grazie a Filippo Breggi in regia e Alessandro Marco Tullo in redazione. Alla linea al Giornale Radio, l'appuntamento a domani.